Piccolino, Matteo Quinticopio, buongiorno. Buongiorno, allora qua Rivi 6, Santiago 6, Radio 4. Ma c'è Piccolino, sì, perché c'è proprio un segnale abbastanza rilevante, molto tenue, sei in condizioni critiche, di modulazione. Antone? Dimmi già. Sta uscendo con l'antennino di macchina, poverino. C'ha l'antenna come la tua, non ce l'ha piazza, raga. È timido, non gli piace piazzarsi. C'è molto ci vuole, è un gioco, guarda. E perché è timido? Sto scherzando, comunque non ci decide mai a piazzarla. Allora me la prendo io, se non la vuole, prego, me la prendo. Grazie, grazie, sì. Già, io l'avrei anche messa l'antenna, però preferisco investire i soldi in quell'apparecchio, perché come ti ho già detto è l'ultimo dei componenti classici, capito? Non è CDT. E li stanno facendo fuori uno dopo l'altro e quindi me ne voglio anche parlare uno per il futuro. Gappa, vabbè, ma non è che ti dà queste grandi spese, basta il cavo, vai. Il cavo poi c'è tutto. Sì, il cavo solo devo comprare. Il cavo solo, il resto dell'attrezzatura ce l'ho. Anche il palo forse si può recuperare. Ascolta, cosa ti volevo dire? Non me lo ricordo, riprendete, va. No, Paolo, telescopico, ti costa solo 50 euro da 8 mesi, a Guglia. No, il telescopico, quello che ho visto io, costa 15-20 euro. È da 2 metri per 3, per 3 sezioni. Sono 6 metri. No, io l'ho preso da 8, a parte da quello grosso, sino ad arrivare a quello che era l'attacco dell'antenna. Questo è sottile, mi pare abbia 2-3 mm di spessore e conta che questa antenna è leggera, è leggerissima, quindi può essere anche un palo TV per dire, no? Sì, vabbè, ma se non metti il robusto ti dura più il tempo, là. Perché poi se si infradicheggia non tiene più, eh. Invece quando è grosso, io ce l'ho grosso e più c'ho l'anima dentro. Sai come ho fatto per modulare, no? Siccome l'antenna magnetica richiede un minimo di massa, ho preso un affare in lamiera verniciata, di bordo e quadrato, il bordo a 50 cm per 50, per fare un po' di piano di massa, capito? Hai fatto bene. C'è gente che la mette anche sul tetto, si fa una piastra in là, in lamiera, o in latta, come vuoi chiamarla, e si mette l'antenna al centro. L'avevano fatto con la Turbo 2001, sai l'altro sparato. Lo so, sì, si può fare, basta fissare questo basamento metallico al tetto e praticamente ti si è fatto un'antenna a quarto d'onda. Io avevo la 58, con la prima 2001, 58. Ehi, però già ricordati che la Turbo 2001 è un quarto d'onda, non è 58. Cioè se tu togli un metro e 80 di stilo, no? Il solo stilo, 1,80 m. E dentro la bobina, se tu guardi, è grossa grossa. E ci sono pochi centimetri di cavo, fino ad arrivare a 2,75. Non ci possono essere tutti quei metri per arrivare a... Ci dovrebbero essere 5 metri di cavo arrotolato, ma non è così. Anni, ti volevo chiedere, c'è qualche festa in zona oggi? Qualche festa qua? Ma non lo so. Non so se c'è... Allora, prima ogni anno a Sassari facevano la festa dei lavoratori, era organizzata dai sindacati, c'era Porcetto, Agnello, tutta la bagoglia arrostita, tutti in greffa, tutto gratis. Ma lo facevano questo? Dietro l'ippodromo, dove ci sono... Hai visto dove c'è quella pinetta all'ippodromo? Allora, io vado all'ippodromo non entro, giusto? Devo costeggiare quella strada stretta che ti porta sotto il ponte. Allora, tu devi andare di fronte all'Inam, ce l'hai presente? L'Inps, dov'è? di fronte c'è praticamente una pineta, lo facevano sempre di adesso, quest'anno non lo so Antonio, non ti so dire nulla di sicuro se lo fanno o meno, ma so che lo facevano ogni anno, poi se quest'anno per la austerity, per la crisi, per questo per l'altro non lo facciano, non lo so, però lo facevano. È perché ancora non ho avuto l'occasione di guardare la nuova, vedere se non c'era qualche evento oggi, mi sa che ci scende, vedo un po', se c'è qualcosettina a fare un giro stasera, capito? Andare sempre sulle tifosi, Platamone, compagnia bella, se c'è qualche pitticciola, faccio una serata diversa. Guarda, non ti so dire nulla di sicuro Antonio, perché non sono uscito da casa, sto preparando il pranzo e quindi sono un attimino all'apparato, poi vado, controllo se sta cucinando la questione e via, e perché c'è mio nipote a pranzo e quindi se sto preparando qualcosa di buono. E già va bene, speriamo che sia vegetariano già, No, è carnivoro, malato, è bocumagna lì. E allegria allora, dai, già va bene. E mi sa che ci chiude solo meno, mezzogiorno c'è buono, però c'è neanche, anzi aspetta, che c'ho qua il telefono. È mezzogiorno quasi, mi sa che sono scelto e vedo un po', do un'occhiata al giornale. Spero dovrebbe essere uscita anche oggi se è il giorno dei lavoratori, per modo di dire lavoratori comunque, per chi lavora. Cava cava, tutti lavoriamo Antonio, anche tu lavori. Ma però diciamo, speriamo che sia uscito oggi il giornale, capito, con la scusa che è festa oggi, abbiamo fatto un po' di riposo, adesso scende e vedo un po', se c'è qualcosettina ti do un colpo, dai di telefono, vedo un po', ci sentiamo dopo allora, dai, buon proseguimento. Ehi, aspetta un attimino, io vado a vedere il forno, un attimino, Marco, vado a vedere il forno, un secondo e poi ritorno. Ciao Antone, dai, buona questa greca, fammi sapere. Ehi, se sei qua, salgo, scendo e salgo, già è abbastanza veloce, pare una spogliata, tanto è già mezzogiorno, tra un po', tra mezz'oretta si mangia, dai, va bene, ti do informazioni se ci sei su questo canale, a dopo. Ok, ciao l'amico, ci sentiamo alle prossime. Chi c'è ancora? Marco, ci sei ancora? Secondo? Sono qua, io avevo calato un attimino. In fuga e di nuovo, approfittando le stampi. Sì, diciamo, sono chiamato. Ho detto in fuga e di. Scusa un attimo. Fai, fai. Di modulazione. Beh, questo apparato non è da perché la mixer è da 13 già, però si vedono un po', va. Ok, così tu. Quindi se ne passo per questo. K, va bene. sì. Cava cava. Ma che Antonio? Come? Che Antonio? Di pulire tutto la vescica in modo da svuotarla. già non è niente di grave, l'importante è che funzioni l'attrezzo. Perché quello è un prodotto innovativo. Tu, HI. Sarò, vabbè. Già vabbè un giorno che non funzionerà anche quello. E allora lo appendo al chiodo, come i guantoni. Perché che sto chiamando l'Italia? La chiedovi, hermano, della Scusiana Sardinia, adelante. Adelante, mio hermano, discuti l'Italia della Sardinia, Italia che va chiamando. La chiedovi, hermano, discuti la Sardinia. Metti mille parti. Ma già mi sento, stava chiamando. Attento mio hermano, escuchi Italia Sardinia che va chiamando Greccovano. Ti sento, ti sento. Da dove stai chiamando? Qui è la Sardegna, nord Sardegna che si supercordializza. Operatore doppio room, Gianni doppio room che ti supercordializza. Ciao Sardegna, mi copi Sardegna, qui Ravenna, Ravenna, cambio. Te escucho, ma molto piccolo, molto petito. Ascolti Ravenna, ascolti Ravenna. Ravenna? No, pa Ravenna, sì, Tonino qua, dai, parla per tanto. Scappa, va, va. Chi ti saluta è l'operatore Gianni Doppio nella città di Sassari, nord della Sardegna, avanti. Ah, ma ti arrivi una malata, come ti arrivo io? Ti arrivo qua, Sassari. Prova che ti do il controllo. Vai avanti, così ti do il controllo. Che un passaggio è arrivato fortissimo. E da me 4, 4, 5. Operazione, operazione. Vabbè, se ne lasci di farmi zambaro. Ciao, sta. Avanti, l'amico di nuovo, che ti hanno sovramodulato, non ti hanno capito cosa è. Come la parlate, parlate. Palazzo. Ho fatto un passaggio che era una bomba qua, a 9 è arrivato e poi si è calato nei segnali. Ho bruciato tutto. Là c'è un attimo di fianco che sta chiamando di nuovo. Avanti Ravenna. Santiago 5 e l'avanti di 4, vai. Ti ascolto, Tonino, stai lavorando anche oggi? Controllo di Radio Santiago, ti ringrazio. E avanti Rimini. Kappa 7351 ricambiate al 100%, la stazione doppio numero della città di Sassari, nord Sardegna, che ti supercordializza. In compagnia di Marco Condor, e qui si è affacciato anche l'amico Tigre. Avanti di nuovo! Di cuore, doppio room che ti supercordializza. Io rilancio tutto per Marco Condor e poi fa girare. Kappa, io non l'ascolto, quindi comunicaci tu con loro. Vabbè, vi saluti, eccetera, eccetera. Da dove sono? Da lì. Ti ringrazio, buon trabacco e buon tutto, buona giornata anche a te, l'amico mio Rimini. Avanti Marco. Vabbè là, vi saluto io che sono andato a fare il tutto, là, ci sentiamo più tardi. Ciao Gianni, buon pranzo e buon primo maggio, e ci sentiamo se Dio vuole più tardi, forse. E gli hai chiamato, va, fatti sentire. Kappa, kappa, va. Ciao. Provolo 2323. Ciao Marco, ben sentito. Buongiorno, Salvatore da questa parte. Ciao Salvatore, radio buona, radio buona. Dove sei Marco? Io sono zona di Alessandro con un attenino, cioè con l'antenna veicolare dentro casa. E allora siamo vicinissimi. Allora siamo vicinissimi, ti sento benissimo infatti per questo. Hai un passaggio per il segnale? 1-2-3-1-2-3 4-5-6 Stavo dando un po' corrente alla radio perché sta entrando poco e niente ultimamente e quindi sto facendo delle prove e adesso sto provando sulla 27 con l'antenna della 27 e poi mi sposto, provo sulla KF. Adesso qua non c'è più nessuno, prima c'era qualcun altro, c'era anche Gianni del Perù, e è andato a preparare il pranzo. Il bracchino era rimasto qua acceso con lo squelch. K. No, io sto... Adesso sto cercando di risolvere un mistero. Perché con questa radio, ma con l'altra antenna, quando vado a trasmettere su altre frequenze sto disturbando la parabola satellitare, sta dando un fastidio questa cosa, quindi adesso sto salendo su in terrazzo, faccio una piccola modifica e riscendo qua a fare le prove. Ho capito. Ma noi ci siamo sentiti altre volte, Marco? Guarda, io entro una volta ogni qualche mese. Forse ti ho sentito un VHS, può essere? Sì, sì, può essere, può essere. Può essere, ma anche tu sei un radioamatore? No, negativo, SWV. Ho capito. Sì, ogni tanto io vado anche in V e in U. Più che altro in VHF, in U forse l'ho trasmesso tre volte, non c'è stato questo grande traffico. Sarebbe peso fare l'esame, ma la mia voglia di studiare è troppo poca, se no l'avrei anche fatta, avendo voglia. Ehi vabbè, comunque riesci a farti sentire nella 27 a parlare, come se SWL ti ascolti le trasmissioni e vabbè, la passione comunque riesce un po' a portarla avanti. E poi io non entro da casa e questo è un caso, io modulo dalla macchina con l'apparato CB, sì, mantiene da macchina. Ho capito. Ok Marco, se mi scusi, visto che adesso la radio si è un po' scaldata, vado a, come stavo dicendo, a fare le prove giù, adesso devo fare 40 metri e 80 per vedere se il disturbo si è un po' attenuato. Perché da quando ho spostato i contrappesi per la massa, la cosa è successa. Non so se è una coincidenza. Da quando ho fatto questo spostamento, questa ridistribuzione del piano di massa, ho queste interferenze. Vabbè, niente, adesso che la radio è un po' calda posso scendere giù e fare gli accordi e vedere un pochettino come si comporta. Comunque ti ringrazio per la chiacchierata, spero di risentirci presto, Marco, a te ancora. Sì, guarda che vuoi stare a posto, qualche armonica selvaggia che si fa in giro a disturbare quello che non vedo. Ok, ci sentiamo magari in condizioni migliori, io sono ancora allo stato bravo, sono ancora quasi a letto per dire, quindi mi devo alzare, vestire, lavare, non ne voglio, per la domenica oggi è brutto. Ok, alle prossime, ci sentiamo, ciao. Ecco. Ha registrato il break, figurati, giorni come questi sono fatti per riposare, Marco, quindi se te sei a letto sino alle 2, guarda, non è che sia, non è un crimine. Ok, faccio entrare il break, saluto anticipatamente l'amico e saluto anche a te, Marco, di nuovo, e saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Avanti il break, correnti da parte di Salvatore, ciao a tutti. Papà, ciao, ben sentito, stazione in gufo. No, non sto entrando. Sono entrato per dirti, alzarti, poltrone. Uia, uia, un gufo che sgrida un condor. Eia, già è bella giornata, anche se è nuvoloso già è bella. Stazione, giù 5. Oh, il leoncino. Marco, pronto? Ui, tutti all'ascolto siete, ah, orecchie di gomma. Sempre Marco lì. Ciao, Graziano! Ciao, Leoci, ma rimane l'ascolto che mi sto preparando i ravioli qua. Se no, quando viene me la... le mogliere mi cudarruccio. Rimane l'ascolto, va. Scappa, io sono qua... dietro via Cavour, cambia! Girella sei, ah! No, ero da Corgio, ero da Pomponio, il fratello, che gli ho portato una questione che mi dovevo mettere a posto e gli ho lasciato, capito? Poi ci ho passato a mio fratello, pigliami l'aperitivo e me ne sto rientrando tutto a casa, Marco! Ho capito, capito, ma è lineare! Mettere a posto? Ma no, non è da mettere a posto, io l'ho lasciato per provarlo, hai capito? Poi dice portami il B150 che lo proviamo e almeno vediamo come esce, hai capito? Ho capito, sì. Va bene, dai, non modulate voi, mi prendete voi che vi ascolto, che comincio piano piano ad alzarmi e a fare tutto quanto. Se no non mi alzo più oggi. Ma perché dove sei? A casa, Marco lì? Sì, c'ho ancora la pigiama io. Alla faccia del cavolo? A che ora sei rientrato? Che ora sei rientrato stamattina? Allora, fammi fare il conto. Alle 4:10. Cazzo, e dove cavolo vedi? In tournée? Cucina faccio tutto io. Fai bene, Graziano, fai bene. Manco male, c'è quella passione. Gloria, per carità. Ehi, Agaba, chiacchierate pure, se finisco prima rientro, tanto sta cucinando ancora, ma devo preparare l'altra roba. Non ci sentiamo, allora, anche perché ho tutta la sentiamo tutte le voci. E poi vorrei anche a te, mercoledì, là, che io sono quasi arrivato e ti auguro una buona carica, buon tutto, ci sentiamo tutte le voci mie, dai. Ok, ciao Leoncino, alle prossime, io rimango in ascolto. Ok, ciao Leoncino, ci sentiamo alle prossime e saluto anche la stazione Cucco, perché io comincio a farmi, che anche ora mi metto a posto, là. Ci sentiamo tutte e due alle prossime, cambio.